l'esistenza poi, ma a che è servita se non sento nemmeno il profumo? Ma io e te siamo già arrivati, non lo so. Servita se non chiedo.